Allora, come sempre facciamo prima un piccolo riassuntino delle puntate precedenti. Noi abbiamo cominciato il Vangelo di San Matteo, abbiamo fatto un'introduzione presentandolo complessivamente. Poi abbiamo dato un'occhiata ai discorsi di Gesù, approfondendone alcuni, in particolare il discorso della montagna. Poi abbiamo visto i miracoli di Gesù la volta scorsa, alcuni. Oggi diamo un'occhiata alle parabole di Gesù. Vi ricordate che nel Vangelo di San Matteo, adesso lo vedremo subito, ci sono una serie di parabole contenute tutte quante all'interno del capitolo tredicesimo. In questo capitolo tredicesimo si affronta il tema, il grande tema del regno di Dio. Vedremo che, dando un'occhiata attenta a queste sette parabole, che adesso vorremmo anche leggere e passare in rassegna, insomma, con una certa attenzione, vedremo come si possono proprio trarre fuori delle leggi del regno di Dio. Leggi, insomma, non dico come le leggi della fisica, però, insomma, ci sono delle leggi descritte appunto da Gesù attraverso queste varie parabole che adopera, ciascuna delle quali mette in evidenza un aspetto molto particolare. E nel considerare queste parabole teniamo sempre presente, lo dico prima, generalmente c'è un doppio livello di interpretazione. Uno, voi sapete che il regno di Dio, si legge nei documenti della Chiesa, anche in quelli del Concilio Vaticano II, dove si trova il regno di Dio adesso? Non compiuto, ma come dire, in formazione e in costruzione. Dove si trova? Si trova come collettività, come complesso nella Chiesa, d'accordo? E nella Chiesa cattolica. Inizia, dicono opportunamente i documenti della Chiesa. Inizia perché ancora non è perfettamente instaurato e compiuto, questo è abbastanza evidente, non lo è ancora, purtroppo. Però il regno di Dio coinvolge anche le persone come singoli, quindi nella loro adesione personale e nella loro risposta personale all'appello di Gesù. Quindi c'è questo doppio livello, la Chiesa, diciamo così, e i padri direbbero l'anima. Quindi quando leggiamo queste parabole dobbiamo tenere presente che Gesù, nella sua intelligenza, adimira tutti e due questi livelli. Vedremo che in alcune parabole è più accentuato l'uno rispetto all'altro, ma più o meno sono presenti in tutte. Le parabole, ricorderete dall'introduzione, sono sette. Sette è un numero fondamentale nella Sacra Scrittura, perché sette è il numero, ricorderete, della perfezione. Dio ha creato il mondo in 7 giorni. I colori della luce sono sette, le note musicali sono sette, quindi è un numero che esprime perfezione divina. Allora, la prima parabola, la prima in ordine cronologico ed è anche la più importante secondo Gesù, è la parabola del seminatore. Tenete presente, guardate che Dio è Dio, ha scoperto l'America. Perché dico questa cosa qui? Perché anche l'ordine con cui Gesù presenta le parabole non è casuale. Cioè la parabola del seminatore è la prima, non è l'ultima, né la terza né la quarta, perché deve essere la prima. È come se ci fosse una sorta di gradazione, sono tutte importanti. Ma come dire, è come quando si costruisce una casa, uno costruisce le fondamenta, poi tira su le colonne, poi tira su i muri maestri, poi gli altri, poi il tetto e poi i tramezzi, ok? Non puoi costruire una casa dal tramezzo, devi costruirla dalle fondamenta, no? Quindi quando noi ci accostiamo al Vangelo teniamo sempre presente che c'è una perfezione assoluta che noi non siamo neanche in grado di comprendere perfettamente, non solo nelle parole che vanno sempre al di là della nostra capacità di comprensione, ma anche nella struttura, nella modalità, nella formulazione di alcune cose. Allora, la prima è la parabola del seminatore. La seconda, non casualmente, ci vedete bene dietro? Sì. O spegniamo la luce dietro, si vede bene. La parabola della zizzania. La terza, il granello di senape e il lievito. Queste due vedremo che possono essere lette insieme, infatti sono abbastanza accorpate anche nel testo di San Matteo. La quinta è il tesoro nascosto, la sesta la perla preziosa e la settima la rete gettata nel mare. E al termine della settima, in una considerazione conclusiva, dopo che Gesù, chiude chiede ai discepoli se ci hanno capito bene tutto quello che ha detto, nelle parole con cui Gesù conclude il discorso parabolico c'è quella che gli esegeti chiamano la firma di Matteo, lo scriba, lo vedremo, che trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Detto questo, dobbiamo fare adesso un passaggio fondamentale, perché dobbiamo andarcela a leggere le parabole. Apriamo l'applicazione della Bibbia, prendiamo il capitolo 13 di San Matteo e cominciamo a leggere la parabola del seminatore. Speriamo di riuscire a farcela, leggerla quantomeno. Voi sapete, la parabola del seminatore, le prime due parabole Gesù le formula e dà lui una prima spiegazione, quindi ci semplifica un pochino il lavoro, quindi l'ulteriore approfondimento è fatto già sull'omelia che ha già fatto Gesù, quindi è una cosa un pochino più semplificata. Allora, Gesù esce di casa e si siede in riva al mare. Attenzione a un particolare: si cominciò a raccogliere attorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca. Là si pose a sedere mentre tutta la folla rimaneva sulla spiaggia. Tenete presente, qui c'è una folla immensa, perché Gesù parlava in parabole, come dirà lui stesso a spiegazione della parabola del seminatore, alle folle, non agli apostoli e non ai discepoli, ma alle folle parlava in parabole. Poi vedremo perché. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde sulla strada, vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in un luogo sassoso dove non c'era molta terra. Subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma spuntato il sole restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda. Frase molto importante. Ora saltiamo i versetti intermedi perché poi li prenderemo e andiamo immediatamente alla spiegazione di Gesù. Intendete la parabola del seminatore. Tre volte che uno ascolta, vedete, la parola del regno, il regno di Dio, e non la comprende, viene il maligno, ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso è l'uomo che ascolta la parola e subito raccoglie con gioia, quindi è già qualcosa di più, ma non ha radice in sé ed è incostante, sicché appena sopraggiunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Quello seminato tra le spine è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce ora il 100, ora il 60, ora il 30. Questa parabola, a detta di Gesù, è la più importante di tutti, quindi la andiamo adesso a vedere insieme, cercando di, anche alla luce di quello che Gesù ha spiegato, di capire bene i vari momenti. Allora, Gesù stesso dice, il seme è la parola di Dio. Non è un caso che sia usata l'immagine del seme, perché Dio ci tratta, Dio tratta con l'uomo, non ci dà tutta quanta la pappa pronta, quindi il seme, voi capite che è una realtà che ha già in sé tutto lo sviluppo della pianta, ma il seme deve essere accolto da una terra preparata, deve essere innaffiato, la pianticella deve essere curata e portato a maturazione. Quindi già ci sta dicendo una cosa, che la fede, voi sapete, siamo stati tutti quanti battezzati, facciamo subito qualche applicazione anche per noi, no? Com'è che la gente dice, arrivata a 40 anni, 50 anni, dice, ma io la fede non ce l'ho, beata a te, tornare, c'è tutta sta fede, io non ce l'ho. Sbagliato. Non è che non ce l'ha. Quel seme che è stato messo, che non è stato battezzato, lì era e lì è rimasto. Perché se tu non lo curi, lo trascuri, non lo annaffi, non lo alimenti, te saluto. Quindi già proprio l'immagine che Gesù usa, cioè Gesù è Dio, è il Maestro, quindi non parla a vanvera come noi. Se usa l'immagine del seme, questa doveva essere immaginata. Usa sulla strada, ecco, è evidente che sulla strada, se io butto un seme qui per terra, vuol dire che c'è una condizione di chiusura fondamentale o di superficialità, quindi i primi due atteggiamenti che non si possono avere. Una persona può essere chiusa alla parola di Dio, quindi se una persona è chiusa, hai visto le persone, quante volte le dice, allora io, insomma, però mio padre e mia madre non vengono mai in chiesa, io gli cerco di convincerli, dico, no. Allora, se c'è la strada che sta fuori, quando trovi la strada, che bisogna fare? Bisogna togliere tutto, bisogna sfasciarla la strada, far emergere il terreno, poi il terreno bisogna ararlo e provare a vedere se buttandolo in quel terreno si attecchisce. Cioè, che significa? Quando una persona è chiusa o è dura, è inutile che tu gli stai facendo 100.000 prediche, perché quella, non solo che danno orecchie agli entro e da quell'altra gli escono, ma gli fanno più male che bene, le usa per rivoltartele contro di te. Allora bisogna spaccare la strada e preparare il terreno. Sapete come si fa? Quello che dice la Madonna, la preghiera e il sacrificio per altre persone, sperando che il Signore apra quei cuori, spacchi quelle pietre. Quindi le persone dure o le persone superficiali, quelli che magari non si rendono conto che quando entri in contatto con la parola di Dio stai davanti al tutto, cioè, capite, avere la grazia, non lo so, di partecipare a un pellegrinaggio, di ascoltare una bella predica, di qualche altra cosa del genere, cioè sono cose che ce le possiamo far scivolare addosso, veramente, no, come un seme buttato per terra, oppure prenderle e accoglierle. Quindi questo atteggiamento dell'uomo superficiale. Poi, il terreno sassoso. Ecco, questo è già un pochino di più. Allora, immaginiamo sempre un pochino di terra, quindi la terra c'è, ma sta piena di pietre. Quindi non è, quindi, sto seme attecchisce, ma non può mettere le radici, quindi nasce una piantina e poi si secca, muore. Ecco, Gesù spiega quale comportamento è. Sono quelli che si casano, io li chiamo così, incontrano il Signore, si convertono, hanno un'esperienza profonda del Signore, vanno al pellegrinaggio, sono tutti quanti casati, eccetera, eccetera. E se pensano che, boom, adesso divento santo con 2 giorni. È il seme, quindi. La vita interiore, la vita cristiana, necessita di tempi di maturazione. Io sono appena arrivato qui, no? Ecco, voi bisogna vedere, sapete, un parroco deve fare i conti dopo 10 anni che sta in una parrocchia. Perché non è che arriva in parrocchia e stanno tutti aspetta a lui e tutti stanno di dice qualunque cosa, dice che ci buttiamo a fiume e noi ci andiamo, assolutamente no. Quindi è un lavoro pacato, lento, costante, graduale, che poi, se Dio vuole, produce dei frutti. Cioè, le leggi di crescita del regno di Dio sono come quelle nostre, si va avanti piano piano, con calma, con gradualità, con pazienza. Se uno non è costante e perseverante, ecco il seme, non c'è nessuna possibilità. Cioè, si dice anche nel linguaggio umano, non giunge a maturazione, ha ricevuto dei doni, si è entusiasmato e poi finisce tutto. Bisogna fare attenzione, questa è una cosa molto diffusa oggi tra i fedeli, che stanno sempre andando appresso in giro a tutti i posti dove dicono che appare la Madonna. E io, attenzione, io ci credo che appare la Madonna, non sono un blasfemo, un miscredente, no. Però, oppure avete visto, ci stanno alcuni gruppi, fanno le messe un sacco di cose con l'imposizione delle mani, con le guarigioni, con i miracoli, con queste cose. Alcune, attenzione, sono cose di per se stesse non cattive, ma è il modo con cui alcune persone si accostano, no? Per fare la grande esperienza spirituale, per avere questa grande emozione interiore, e non ti resta niente poi dentro, però. Quindi, se accoglie la parola, poi bisogna cominciare un cammino che sia costante, costante. Per questo che la Chiesa è andata a messa tutte le domeniche, tutte costantemente. Uno, cioè, che già uno è fedele a questo qui, è già una grandissima cosa. Perché vuol dire che apre le porte al cuore di Dio e entra in un cammino che sa essere, come dire, strutturato e distanziato nel tempo. Poi le spine, altro problema. Le spine, lì Gesù parla della preoccupazione del mondo e l'affanno della ricchezza. Allora, voi capite che la giornata nostra è fatta da 24 ore. Se noi siamo completamente assorbiti troppo dalle cose del mondo, fino al tempo di non trovare più manco 5 minuti per il nostro Signore, i soldi sono l'espressione, abbiamo visto anche domenica scorsa che c'era messa, di ciò di cui abbiamo bisogno per la vita terrena. Non è che uno i soldi ne può fare a meno, d'accordo? Sarebbe da pazzi dire una cosa di questo genere. Però bisogna fare attenzione a ciò che i soldi rappresentano. I soldi rappresentano la possibilità di soddisfare tutti i nostri desideri terreni, cioè che abbiamo in questo mondo. Allora, noi in questo mondo dobbiamo viverci, ma il regno di Dio non è uguale al regno di questo mondo, cioè entra in questo mondo per elevarci ad una vita soprannaturale, che è vissuta nel mondo ma con l'occhio rivolto verso il cielo. Il cielo c'ha bisogno delle sue esigenze. Se io non trovo mai tempo per Dio, per pregare, per ascoltarmi, per leggere un bel libro, per ascoltare una predica, presto o tardi anche quel semino che è stato seminato sarà soffocato da tutti quanti i pensieri e le preoccupazioni che la vita terrena in cui uno è completamente immerso presenta davanti, e non si giungerà a maturazione. Invece chiaramente la terra buona sono quelli che ascoltano la parola, primo, quindi si mettono, danno un po' di tempo a Dio, secondo, la accolgono, terzo, la comprendono, e quarto, la cominciano a mettere in pratica, quindi cominciano a dargli, a farla fruttare. Ecco, quanto? Gesù dice 30, 60 e 100. Da chi dipende questo 30, 60 e 100? Allora, in parte è un mistero che dipende dalla divina elezione, d'accordo? Perché i fuori classe ogni tanto nostro Signore li manda, quelli che possono dare 100. Se uno non è fuori classe per vocazione, sicuramente non ci diventerà. Però è anche vero che alcuni che dovrebbero essere dei fuori classe, a causa della loro cattiva volontà e negligenza, fuori classe non ci diventano. Capite? Quindi c'è questo gioco tra il dono di Dio e la risposta della creatura, e che poi diventa impossibile, d'accordo? Come non usciamo fuori? E tu devi aprire il cuore a 360 gradi, e poi si vedrà la grazia di Dio come, dove ti vuole portare, fino a dove ti vuole portare. Voi sapete, su questo gli interpreti hanno detto un sacco di cose. Chi è che dà il 100, il massimo? Domanda facile. Alcuni padri della Chiesa, i martiri. Più di quello a Dio non si può dare. A Gesù è morto in croce per me, ha versato tutto il suo sangue, e io ricambio col dono della vita e col dono del sangue. Al secondo posto, chi sono le tre categorie che San Tommaso dice che in paradiso stanno? I vergini, quelli che danno molto al Signore, nel senso che rinunciano alla bellezza e anche degli affetti umani, di farsi una famiglia, una cosa bella, che ci ha dato tantissime soddisfazioni, per darsi tutti quanti al Signore, oppure per spendersi per il prossimo. Dice il 30, sono i dottori, non i medici, i dottori sono quelli che si riempiono di Dio per poterlo trasmettere agli altri, quindi che spendono la vita per far conoscere il Signore al prossimo. D'accordo? Oppure qualcun altro diceva che il 30 sono quelli che vivono nel matrimonio, d'accordo? E il 60 sono quelli che rinunciano al matrimonio e che si offrono al Signore, e il 100 sono i martiri. Quindi sono varie, oppure tante altre interpretazioni. L'importante è che si comprenda che la potenza di questo seme produce frutti differenti, in parte dipendenti dal dono di Dio e in parte dipendenti dalla risposta dell'uomo. Ecco, poi su questa ci soffermiamo più che su tutte le altre, perché era più importante. C'era nell'intermezzo, Gesù dà delle spiegazioni abbastanza importanti. Gli si avvicinano allora i discepoli, che probabilmente non avevano capito niente prima della spiegazione. Dice: ah, seme, la terra, le spine, i sassi, la strada, ma questo che dice? Perché non pensiate, insomma, che gli apostoli erano persone molto semplici, qualcuno era abbastanza istruito, San Matteo forse era un po' più colto, Giuda era un po' più colto degli altri, ma il resto, il livello non era un granché, no? E allora gli dicono: ma perché parli in parabole, come per dirgli, guarda che se gli parli così questi capiscono niente. E Gesù dice questo: attenzione, perché a voi, rivolgendosi ai dodici, è dato conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Leggo tutto e poi lo commentiamo. Per questo parlo loro in parabole, perché pur vedendo non vedono, e pur udendo non odono e non comprendono. E così si adempie per loro la profezia di Isaia che dice: voi udrete ma non comprenderete, guarderete ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è indurito, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi per non vedere con gli occhi, non sentire con gli orecchi, non intendere con il cuore e convertirsi e io li disani. Ma beati i vostri occhi perché vedono e i vostri occhi perché sentono. In verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non lo udirono. Riprendiamo bene la spiegazione di tutto questo fondamentale intermezzo, poi nelle altre andremo un pochino più spediti, che sono un po' più semplici e meno complesse di questa parabola. Allora, questo intermezzo di Gesù: a voi è dato di conoscere i misteri del regno, agli altri sono in parabole. Perché è così? Fa delle ingiustizie Gesù? No. Così capiamo anche perché parlava in parabole alle folle. Allora, voi sapete che in una folla variegata ci può essere di tutto. Ci può essere. Chi è andato ad ascoltare Gesù perché vuole soltanto un miracolo, ha sentito dire questo, fa un sacco di miracoli, chi lo sa se mo ci esce fuori il miracolo. Può essere che andare a sentirlo per curiosità. Chi sarà sto santone che gira adesso? Dicono che predica tanto, fammi andare a sentire. D'accordo? Ci può essere anche che andare a sentire con qualche cattiva intenzione. D'accordo? Come è testato l'Evangelo. Noi farisei, gli scribi che stavano sempre a cercare di vedere se Gesù diceva qualcosa che non andava, per denunciarlo, per mettergli i bastoni tra le ruote, no? E invece potrebbe anche esserci qualcuno lì in mezzo che va ben disposto, nel senso che c'ha intenzione di conoscere qualcosa, però ha ancora, come dire, un'apertura appena appena incipiente, molto molto imperfetta. Oppure potrebbe esserci qualcuno che va lì proprio sprezzante a dire: sentiamo quante cretinate dice questo, no? Un peccatore di quelli proprio incalliti, che non c'è nessuna intenzione, che vuole semplicemente ascoltare al fine di dileggiare il predicatore. Allora, capite, questa folla va variegata, secondo voi sarebbe giusto, è una cosa fatta bene, che tu ti metti a illustrare apertamente i misteri del regno di Dio, che sono cose sublimi, sono cose sante? Ecco, Gesù nel discorso della montagna ha detto: non si danno le cose sante ai cani, non si danno le perle ai porci. Allora, che cos'è una parabola? Voi capite che la parabola è una similitudine, è una metafora che provoca la persona, perché la provoca, la parabola, tu ci devi pensare, dice: ma questo che vorrà dire? Col seme, col regno, eccetera, eccetera, no? Quindi che cosa realizza la parabola? Se uno è mal disposto, non capisce niente, e quindi gli va né caldo né freddo. Se uno vuole andare a sfrugugliare e trovare qualche cosa per attaccarsi, ha raccontato una favoletta, che ti vuoi attaccare, d'accordo? Ecco. Invece, se c'è qualcuno che ha un piccolo apertura, che fa? Pia sta parabola e ci comincia a pensare. Se ne torna a casa e dice: oh, ma che è sto seme? Che è sta terra? Perché sono queste pietre? E comincia a pensarci. In questo lavorio già la creatura sta aprendo il cuore al Signore. E sicuramente quello la capirà la parabola, perché scende subito lo Spirito Santo e gliela spiega. Capite? Quindi questo Gesù lo faceva con le folle indiscriminate. Perché tu non sai chi c'è davanti con una folla immensa e indiscriminata. Perché agli apostoli spiegava tutto? Perché quelli avevano già fatto, cioè, voi sapete, gli apostoli avevano lasciato tutto. Avevano lasciato il lavoro, chi ce l'aveva lasciato la famiglia, vivevano 24 ore al giorno con Gesù, vivevano sacrificati, insomma, non è che c'erano i beni al sole. Gli apostoli non si sapeva se mangiavano, non si sapeva se dormivano, dove andavano a dormire, chi li ospitava. Quindi avevano dato tutto a Gesù. Avendo già dato tutto a Gesù, Gesù gli dava tutto, quindi la spiegazione completa dei misteri del regno, e lo spiega: a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. A chi ha cosa? A chi ha il cuore aperto e a chi ha voglia di conoscere bene i misteri del regno e è disposto anche a pagare col proprio, come voi, tutto sarà dato. Ma a chi questa disposizione non ce l'ha, le persone che mi ascoltano con cuore non retto, sarà tolto anche quello che pensano ad avere. Non glieli do i tesori del regno se la creatura non apre il cuore. Capite? Cita poi la profezia di Isaia, purtroppo. Dice: il popolo di questo cuore, il cuore di questo popolo si è indurito, hanno orecchi e non sentono, hanno occhi e non vedono. Sono le disposizioni cattive di chi non c'ha nessuna voglia di... Ecco, voi sapete che... Mo faccio una parentesi... Spero non voi e spero non di me. Sapete, c'è un sacco di gente oggi in giro che si lamenta dei preti, e non solo dei preti. Ah, è parroco mio, ah, l'omelia è noiosa, ah, non dice niente. Quindi stanno sempre a lamentare. Allora, dice San Gregorio Magno, però, che a volte, state attenti, certamente il predicatore, quindi il prete, a volte pure qualche vescovo, speriamo di no, perde la favella perché la sua vita non è proprio molto santa, e non essendo molto santa Dio non lo ispira quando parla, e quindi te fa la predica brutta. Però non dobbiamo giudicare, perché a volte succede il fenomeno contrario. E qual è? Cioè, che il prete che non sa predicare è una specie di castigo. Cioè, siccome Dio vede che i cuori di tutti sono induriti, quindi che manco se gli mandasse San Francesco d'Assisi, re di vivo, lo prenderebbero in giro, ma non l'ascolterebbero, perché gli avete convertisse, gli avete fatto tutto come gli pare, se questo comincia a dire una volta sola, guarda che sta cosa non si può fare, che è peccato, cominciano a fare i pazzi, cominciano a sbraitare, allora sai cosa sto dicendo? Te vuoi rimanere a stare nel tuo letargo? E te mando uno che ti fa addormentare ancora di più. Lo dice San Leone Magno questo qui, Quindi quando ci arriva un cattivo pastore, a voi il cattivo parroco, a me i vescovi miei sono tutti santi, ma se mi dovesse arrivare un giorno un cattivo vescovo, ecco, o se arriva il cattivo papa, tutto quello che pare, la prima cosa da fare non è di guarda il parroco, guarda il vescovo, guarda il papa, ma sono sicuro che se mi arrivasse un santo vescovo io ascolterei? Sono sicuro che se mi arrivasse un santo parroco io ascolterei? Sono sicuro che se ci avessi un santo papa io ascolterei? Mia madre diceva, ci stanno tanti che cercano lavoro e pregano Dio di non trovarlo. Questo vale pure per il Vangelo. Capite? Allora, perché te lamenti quando c'è l'aria fritta, poi ti arriva, che ti posso dire, quello che suona al flauto e ti arrabbi perché suona troppo bene e non lo capisci, vi assicuro. Sì. Fantastico, ecco, che andiamo all'unisono, fantastico. È venuto lui e ha detto: Mario, guarda il vescovo nostro, che con la zona nostra di questa in televisione, ha ascoltato tutto la mente. Lo stesso Vangelo l'ho fatto lei. Il nostro vescovo, grazie a Dio, è un vescovo degnissimo, quindi ringraziamo il Signore. Non voglio fare captatio benevolenzie, ma ecco, e quindi assicuro, insomma, lo conosco bene, sì. Sì, sì, poi è una persona molto molto colta, cioè se andate a vedere la biblioteca che c'ha, insomma, sa quello che dice, d'accordo, quindi, ed è fedele. E poi invece dice, la profezia di Isaia per cui dice, invece beati i vostri occhi, quindi se il Signore ci manda a volte qualcuno che ci aiuta un po', bisogna mettersi in ginocchio. Certo, noi Gesù non lo vediamo più, ma lo possiamo vedere attraverso i suoi testimoni, che la grazia di Dio, guardate, non manca mai di mandarli a quelli che li cercano, perché lo vedremo poi nella parabola della perla preziosa. E questo è il seminatore. Adesso è subito un'altra parabola, un po' più inquietante ma molto importante, che è purtroppo la parabola della zizzania. E in modo che andassero a vedere, facciamo pace. Ecco, eccola qui. Questa è una parabola un po' inquietante, però purtroppo è una parabola molto importante sia per la Chiesa sia per noi. Allora, un'altra parabola. Il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel campo, ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico e seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco, apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: padrone, ma non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? E gli rispose: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura, dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla, il grano invece riponetelo nel mio granaio. Vedremo che questa parabola è simile all'ultima, quella dei pesci. E anche la parabola della zizzania Gesù la spiega più avanti. I suoi discepoli si accostano per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Non ho capito niente manco di questa. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Questo lo sappiamo già dalla parabola del seminatore. Il campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno. Attenzione, queste sono parabole del regno di Dio. Dove stanno i figli del maligno? Purtroppo stanno dentro la chiesa. Sant'Agostino, commentando questa parabola, disse: la zizzania sono i cattivi cristiani che la Santa Madre Chiesa deve sopportare nel suo interno. Voglio sapere, quando io sono stato sempre più o meno vicino alla Chiesa, più o meno, però intorno ai 20 anni ho avuto un momento di forte avvicinamento, di più intensa conversione, mi sono molto avvicinato anche alla parrocchia, no? Io prima non ero un grande parrocchioso, insomma, quindi andavo la domenica, insomma, che... E mi sono avvicinato un po' di più, ti immaginavo dentro la parrocchia c'erano tutti i santi, tutti i collaboratori, i consigli pastorali, le cose, i catechisti. Ma avvicino, a un certo punto dico: hanno sono a fine. Perdonate, insomma, perché vedevo delle cose, dico: ma chi ci sta qua in mezzo? Ma questi dovrebbero essere più santi dell'altro, ma come mai? Ecco. E rimanevo scandalizzato, perché non avevo ancora studiato la parabola della zizzania. Purtroppo non dobbiamo scandalizzarci di queste cose. Prima, perché siamo tutti quanti in cammino. Secondo, perché il nostro Signore ha già detto: il diavolo non è che va a lavorare nel mondo tra i pagani i peccatori, che ce la fa da quelli? Quindi è tutta roba sua, che quella è già, ce l'ha già in ipoteca, d'accordo? Sono tutti quanti ipotecati per l'inferno. Dove va a fa danni? Va a fa danni dove potrebbero starci i suoi concorrenti, quindi quelli che diventano santi, quindi quelli che vogliono venire in grazia di Dio, quindi quelli che mettono al sicuro la salvezza della propria anima e col bene che fanno e con la parola che è portano al paradiso pure altra gente. È lì che il demonio deve andare a fare danni, seminando scompiglio, seminando zizzani, si dice anche nel parlare comune, no? Solo che dice: la mia dittura, dice, rappresenta la fine del mondo e i vittori sono gli angeli. Vedete, qui c'è la pazienza di Dio, quindi i peccatori sono tollerati da Dio, non li fulmina subito tutti quanti, e dobbiamo tollerarli anche noi per molti motivi, d'accordo? Ci sono anche molti motivi soprannaturali, ma uno dei motivi è che viene data ordinariamente al peccatore la possibilità di ravvedersi. Questo deve essere anche per noi. E dobbiamo esercitare tanta pazienza, perché molte volte c'è gente che è figlia del maligno, come dice Gesù, questa espressione sua, senza manco rendersene conto. Quindi che fa delle cose astruse senza neanche capirlo. Quindi come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo e delle sue angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. Hai visto quanti scandali sono stati purtroppo molto pubblicitati dai mass media anche in tempi recenti, anche coinvolgenti uomini di chiesa. Non do scampano quella, cioè quelli o se pentono oppure fanno i conti col Padre Eterno poi, non si scherza col Padre Eterno. Quindi noi non dobbiamo troppo angustiare, cioè, vogliamo che vanno tutti in galera, che vanno tutti tanti ammazzati. Cioè, guarda, alla giustizia umana, anche ecclesiastica, si può anche sfuggire, ma questa no. Questa è parola di Gesù, quindi certamente gli viene dato il tempo per ravvedersi e per pentirsi. E per certi peccati bisogna non solo pentirsi, cioè fa tanta penitenza, e ripararli, tra l'altro. Ecco. Altrimenti getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. E che uno si abbia vestito come il mio non è che è il passaporto per il paradiso, perché chi fa gli scandali col vestito come il mio va all'inferno prima degli altri, d'accordo? A maggior ragione. Ecco, non so se, ecco, questo deve essere sempre molto molto chiaro per tutti quanti, no? Allora andiamo a vedere, dopo questa spiegazione, che vede Gesù dà la spiegazione prevalentemente riferita alla Chiesa come collettività, no? Quindi il buon seme, la zizzania o l'olio. Oh, sapete l'olio, la zizzania o l'olio, l'avete mai visto voi? Io una volta sentii una predica dove un prete spiegò bene che cos'era sta zizzania e sto l'olio. Allora, c'è sto stelo di grano, praticamente la zizzania è una specie di piccola edora, gli si avviluppa intorno. Che succede? Che se tu la togli, fino a quando il grano non è maturo, quindi non è sfarinato e anche sta zizzania si è allentata, stacchi la stele, ti porti via pure lo stelo di grano buono. Per cui non la puoi togliere, non si può fare, devi aspettare. Allora, il livello collettivo l'abbiamo già visto nella spiegazione di Gesù, qui c'è anche un livello individuale. Allora, perché pure noi, se facciamo attenzione, siamo oggettivi, ci abbiamo dentro di noi alcune cose buone e ci abbiamo dentro noi alcune cose non buone. Io vi parlo adesso qua da prete, proprio l'esperienza che ho di cura delle anime. Se tu vedi una persona che non ha maturato la coscienza di un problema che c'ha, di un difetto che c'ha, io glielo posso dire pure in cecoslovacco, in tutti i modi possibili, non mi ascolta, non mi sente. E a volte insistere troppo, sapete che effetto produce? Che la persona se indispone perché non se ne accorge e non tiene più a parlare. Ve lo dico perché purtroppo è successo. Allora, capite? Allora, che devi fare? Devi fare finta di non vedere. Devi aspettare, cioè, magari tu gli mandi qualche segnale, qualche cosa, ma devi aspettare che la grazia faccia il suo lavoro dentro l'anima e questa persona se ne comincia a rendere conto. Perché se tu intervieni prima del tempo, vai a fare danni, cioè, anziché togliere la zizzania, stacchi la spina, stacchi la... perdi l'anima. È capace che quella magari se indispone, si arrabbia, se la pia con te, poi se la pia con te, e se la pia non solo con te, se la pia con i prati in generale, poi se la pia con anche se ci mette più piede, capite? Allora dobbiamo, ci vuole questa pazienza che dobbiamo avere noi a volte anche con noi stessi. Magari tu dici, ho fatto tanto un bel proposito, ma voglio togliere sto difetto e non ce la faccio. Pazienza, a te vai a riconfessare, ma mi confesso sempre le stesse cose. Se Gesù vede che nel tuo cuore c'è la buona volontà di provare a combatterci e toglierti quel difetto, cosa che il confessore deve verificare, se ricadi mille volte ti riconfessi mille volte, perché arriverà il momento in cui il nostro Signore, vedendo la tua maturità, te la toglierà quella cosa. E se prima non te la toglie, la devi combattere, ma devi sopportare questa cosa e usi la confessione. È molto importante questa parabola. L'insegnamento fondamentale è proprio questo qui: la pazienza che bisogna avere sia vedendo il male fuori di noi, sia a volte vedendolo dentro di noi. La pazienza non è l'approvazione, capite? Assolutamente, ma è la coscienza che c'è e che ci stanno certe cose a cui non ci si può fare niente momentaneamente. Bisogna aspettare che i tempi maturino. Oh, adesso abbiamo il granello di senapa e il lievito. Andiamo a vedere. Brevissime queste qui. Si trovano tra la parabola della zizzania e la spiegazione. Allora, il regno dei cieli si può paragonare a un granellino di senapa, anche questo bisognerebbe andare su internet e guardarlo, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande degli altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano tra i suoi rami. Ancora un'altra parabola disse: il regno dei cieli si può paragonare al lievito che una donna ha preso e impastato con 3 misure di farina perché tutta si fermenti. Brevissime queste qua, due versetti e un versetto. Brevissime, molto importanti, perché ci danno altre due fondamentali leggi del regno di Dio. Poi le vedremo tutti quanti insieme nella slide conclusiva, ripassiamo tutte le parabole e vediamo ogni parabola che legge del regno esprime. Allora, il granello di senape. Allora, se uno lo va a vedere, è veramente il più piccolo di tutti i semi. Gesù ha già utilizzato l'immagine del seme. Quindi che cos'è il seme? Il seme è la venuta del regno di Dio in te, generalmente attraverso una parola che tu ascolti, no? È esperienza anche dei più grandi santi di questo mondo che l'inizio, diciamo così, della loro conversione è stata data da un episodio apparentemente completamente insignificante, piccolo, insignificante, quasi impercettibile. Allora, la legge fondamentale, la vedremo poi, è che il regno di Dio non cioè il regno di Satana viene con le trombe, con le cose, con la pubblicità, con i successi strepitosi, con boom, appena esci 100.000 boom. Ah, guardate, questo non c'ha niente a che fare con noi, capite? Quindi questo è fondamentalissimo. Non so se tu, quanta gente si sta oggi all'incontro sulla Bibbia? 12 persone, 10 persone, va benissimo. Se ce ne stanno due, va benissimo lo stesso. tu non ti devi mettere paura di queste cose qua, perché se tu perseveri in questa cosa qui, da 2 poi diventano 2000, ma non diventano 2000 dall'oggi al domani, diventano 2000 tra 10 anni, perché la legge fondamentale del regno di Dio è che comincia attraverso cose apparentemente piccole e insignificanti e poi cresce. Come è diventato così grande? Non lo sai manco tu. E quando è cresciuto l'immagine degli uccelli del cielo, che significa? Che è una cosa talmente grossa che comincia poi ad attrarre altri automaticamente, senza bisogno di fare nessun grandissimo sforzo. Questa è una cosa. Ancora, il lievito. Voi sapete che il lievito, le donne dice, dentro la farina, perché tutto si fermenti. Il lievito è contagioso, perché ne basta poco per far fermentare tutta la massa. Allora, anche qui ci stanno due livelli. Sapete che i documenti della Chiesa insegnano che i cristiani nel mondo sono sale, luce e lievito, cioè la loro presenza ha senso perché con la loro vita e testimonianza di una vita differente gradualmente contagiano. Cioè, sapete come cambiamo il mondo? Lo sentite dire tante volte. Cambia il mondo se divento santo io. Perché se diventi veramente santo tu, inevitabilmente le persone che ti stanno intorno saranno contagiate, sicuro. Alcuni sarà un contagio positivo, nel senso che ti seguiranno, altri sarà un contagio negativo, nel senso che ti mazzoleranno, d'accordo? Ma sicuramente non passi inosservato, sicuro. Quindi c'è questa dimensione pubblica, però questo c'è anche una dimensione interiore, perché allora, che cosa sono le tre staglie di farina? Questa è una cosa bellissima di alcuni scrittori spirituali. Allora, noi abbiamo, sapete che l'uomo ha tre strati del suo essere, non so se avete mai pensato. Noi abbiamo il corpo, abbiamo la nostra vita affettiva, sentimentale, emotiva, e poi abbiamo la nostra vita superiore, che è il nostro spirito. Ci sono questi tre livelli. Allora, che significa che se fermenta tutto in queste tre staglie? Significa che quando una persona accoglie veramente il regno di Dio, tutta la sua vita, in tutte le sue dimensioni, vengono trasformate da questo. Il corpo, la vita affettiva ed emotiva e la vita spirituale. Quindi cambia il modo di pensare, cambia le scelte che si fanno da parte del nostro spirito, ma cambiano anche i nostri sentimenti. Ci sono i sentimenti negativi, le passioni, il rancore, l'invidia, la gelosia, la superbia, l'avarizia, l'ira, sono tutte tante passioni. Quando uno diventa santo c'è sta la gioia, la benevolenza verso il prossimo, la compiacenza per il bene altrui, la compassione, non ci stanno le cose negative. E cambia pure il corpo. Il corpo cambia perché, anzi, il corpo è la prima cosa che cambia quando uno incontra uno santo, perché la prima cosa che compare quando uno si converte è la purezza, la prima. E la seconda è la modestia. Quindi la purezza è il modo con cui si vive l'argomento purezza, la modestia è il modo con cui noi trattiamo esternamente il nostro corpo e le nostre cose, che diventa santo e degno di Dio in maniera soprannaturale. Quindi tutte le dimensioni dell'essere umano vengono gradualmente prese e proprio fatte lievitare dalla forza trasformante della parola di Dio. Capite? Un santo non è uno che è tutto spirito e poi cioè, voi sapete che c'è un'eresia, ho scritto recentemente un articolo, una delle primissime eresie, che erano gli gnostici, dicevano che la salvezza consisteva nell'approfondimento di alcune rivelazioni un po' particolari, che elevavano il tuo spirito e tu venivi a conoscenza di cose grosse che nessuno conosce. Una volta che conoscevi quelle, il corpo non fa niente, il corpo tanto andrà, proprio tutti gli atti impuri che te pare. Dicevano così, sono quelli contro cui Gesù si scaglia nel libro dell'Apocalisse, che li chiama i Nicolaiti, che dice: detesto le loro opere. Questa è un'eresia, non sempre, capite? Perché ci sono delle personalità un pochino schizofreniche, nel senso che magari che pensano che la religione o la fede sia una porta che si apre in certi momenti. Cioè, vado pure a messa, ogni tanto faccio qualche preghiera, però poi il resto della mia vita è completamente altrove. Questa non è fede autentica, questa è deformazione di quella che è la fede, perché se tu accogli il regno di Dio piano piano, sempre piano piano, non ci sono botti dall'oggi al domani, ma questo gradualmente plasma tutta la persona nella sua interezza. Questo è il significato dell'immagine del lievito. Poi ci stanno le ultime tre. Ci siamo? Mappa. Ci siamo perfettamente coi tempi. Questa è la spiegazione della zizzania. Infine, le ultime tre. Il tesoro nascosto, la perla preziosa e la rete gettata nel mare. Allora, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo e poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e poi seduti si raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo, vedete che è molto simile alla zizzania. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete capito tutte queste cose? Vabbè, questo lo vediamo dopo che la firma di Matteo è la parte conclusiva. Andiamo a vedere il tesoro, la perla e la rete. Allora, il tesoro nascosto, significato. Allora, il tesoro, voi sapete che un tesoro si trova quando meno te l'aspetti. Devi costruire, che ne so, stai a fare una buca perché devi seppellire qualcuno, perché, o fai uno scavo perché devi fare una casa, però forse. Che è successo? Apri, mamma mia! Quindi che significa? Significa che a volte l'incontro con il Signore arriva quando meno te l'aspetti, è nelle circostanze in cui tu proprio non te lo saresti mai aspettato, al tempo, allora, nel modo proprio che te lo ritrovi. Succede così. Sapete quanta gente mi ha raccontato? Io non sto proprio a pensare a niente, mi sono trovato in questa situazione, puffete, d'accordo? Ecco, quindi è un tesoro, quindi tu, quando c'era davanti, capisci che c'è davanti qualcosa. Che faccio però? Lo lascio là? Oppure, no, il tesoro sta nel campo, non ho trovato il campo, il tesoro sta là dentro. Capito? Allora che faccio? L'immagine della parabola. Lo sotterro, di chi è sto campo? Tuo, quanto mi dai? Quanto vuoi? 100.000 euro? Via, dammi sto campo. Questa è una parabola, no? Ma ti dice, quando tu hai trovato questo tesoro, ti è venuto davanti che non te l'aspetti, come reagisci, che fai? Capisci che lì c'è tutto e che vale dare il tutto per tutto? Capite il significato, no? Cioè, sapete che il primo comandamento dice che amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Dio non c'ha bisogno del nostro amore, che noi lo mettiamo al primo posto. Siamo noi che abbiamo bisogno di amarlo con tutto noi stessi e di metterlo al primo posto, di capire la sua importanza e di essere quindi disposti a tutto per questo. Capite? Quindi, la legge è che a volte il regno di Dio te lo presenta davanti, ma non te l'aspetti. Puffe. A me è successa una cosa di questo genere diverse volte nella vita, d'accordo? All'oggi o domani succedeva, ti eri alzato la mattina, sembrava tutto da altri giorni, e quel giorno te lo disegnava sul calendario perché succede una cosa che mai ti saresti immaginato. Poi, la perla preziosa è un'altra sfaccettatura, vedi, alcune cose simili, vende tutto e compra la perla. Però, a differenza del tesoro, dice un mercante che va in cerca di perle preziose, quindi è uno che sta in ricerca. Cerca. Alla fine lo trova. Anche di queste cose io da prete, con tutta la gente che conosco, c'è un attestato. C'è la gente che stava cercando, che si è andato a sbattere in giro con tutte le religioni del mondo, le filosofie, le cose, eccetera, eccetera. Alla fine trova un ambiente ecclesiale adeguato dove gli danno... Finalmente, ecco, e quindi lascia tutto il resto e si concentra perché sta perla, la perla è una cosa, un'immagine molto molto bella, possa diventare completamente mia. Quindi l'immagine di chi se lo trova all'improvviso e l'immagine di chi trova il regno di Dio al termine di una lunga ricerca. Per esempio, i Re Magi sono un'immagine perfetta di questa cosa qui, no? Quindi chi capisce che c'è qualcosa di grosso, parte un cammino pazzesco, insomma, in quelle circostanze, disagiato, eccetera, eccetera, fino a quando non arriva a Betlemme per adorare Gesù bambino. L'ultima immagine è la rete. Voi sapete che la rete gettata, che lavoro faceva San Pietro e tutti quanti gli apostoli? Erano pescatori. Cosa gli dice Gesù? Ti farò pescatori di uomini. Allora, può essere un evento inaspettato, può essere il culmine della tua ricerca, oppure può essere che sei stato acchiappato nella rete di chi? Di un apostolo, d'accordo? Il modo ordinario con cui il regno di Dio arriva è attraverso l'evangelizzazione, cioè la predicazione, d'accordo? Anche qui, come già detto nella parabola della zizzania, la rete si butta dentro il mare, poi si tira su, e bisogna dire che ci sono dei buoni discepoli e ci sono dei cattivi discepoli, d'accordo? Giuda era uno dei 12, Giuda sicuramente era la zizzania in mezzo al gruppo apostolico. Arrivati poi alla fine, si farà la divisione tra i canestri dove si vanno i pesci buoni e i canestri dove ci vanno i pesci cattivi. E questa era l'ultima immagine. Poi c'è la firma di San Matteo. Allora Gesù dice: avete capito tutte queste cose? Rispondono sì. Quelle più semplici pare che l'hanno capite senza spiegazioni, quelle più grosse no. Ed egli disse loro: attenzione, per questo ogni scriba. Chi erano gli scribi? Gli scribi erano i grandi maestri e teologi dell'Antico Testamento, quindi quelli che conoscevano bene l'Antico Testamento. Ogni scriba di uno discepolo del Regno dei Cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Vi ricordate quello che abbiamo detto di San Matteo? San Matteo scrive agli ebrei, d'accordo? Quindi questa è anche una un gesto di cortesia fatto nei confronti degli ebrei. Allora, il Vangelo non distrugge l'Antico Testamento, anzi, ne prende tutta quanta la parte migliore e lo completa con il nuovo. Però questa legge, attenzione, delle cose nuove e delle cose antiche, è una legge, un'altra legge, l'ottava, fondamentalissima del Regno di Dio ed anche della vita della Chiesa. In latino è vetera et nova. Voi sapete che nella Chiesa anche oggi ci stanno due grosse eresie, tutte e due false. Uno che vuole solo le cose nuove e uno che vuole solo le cose antiche. Si chiamano tecnicamente modernisti e si chiamano tecnicamente tradizionalisti, d'accordo? Ci stanno quelli che rifiutano ogni cosa nuova, d'accordo? E quelli che invece rifiutano ogni cosa antica. Però questa è una legge fondamentale nella vita della Chiesa. Nella vita della Chiesa c'è tutto. Cioè, come io ho 45 anni adesso, nei miei 45 anni c'è tutta la vita che io ho percorso fino adesso. Certo, adesso io a 45 anni non sono lo stesso che a 10 anni, però quello che sono diventato a 45 anni passa dal momento in cui sono stato concepito fino ad oggi. Non posso dire rinnego tutta quanta la mia vita, no, tutta quanta la mia vita fa parte di me perché tutto ha concorso ad essere quello che oggi sono. Alla Chiesa c'è 2000 anni di vita oggi, c'è 2000 anni di storia, 2000 anni di santi, 2000 anni di tradizione, 2000 anni di magistero, d'accordo? Che si continua ad arricchire con quello che succede oggi, d'accordo? D'accordo? Certamente. Ogni nuovo concilio dà un apporto nuovo alla vita della Chiesa, ogni nuovo pontefice dà un apporto nuovo alla vita della Chiesa, ma tutto viene sempre in un certo modo relativizzato. L'ultimo concilio è stato il Concilio Vaticano II, è il concilio numero 21, prima di lui ce ne stanno altri 20. Papa Francesco è il papa numero, a che punto stiamo, 264, una cosa del genere, non mi ricordo. È il 264esimo successore di Pio, ci stanno altri 263 prima di lui. Quindi ognuno ha la sua originalità ed importanza, capite? Ma nessuno è, come dire, il Deus ex machina. Quindi tutto è relativizzato in questa unità complessiva in cui noi dobbiamo stare. Per cui, se una cosa è stata detta da un concilio che è stato celebrato nel IX secolo d.C., ed è stato dichiarato come verità di fede, guardate che era vera allora e è esattamente vera pure oggi. Così come una cosa che capiamo meglio oggi, anche se l'abbiamo capita meglio oggi, era vera pure ieri. D'accordo? C'è questa legge fondamentale. Capito? Quindi questa è una cosa molto molto importante anche nel nostro modo, come dire, di rapportarci con tante cose, con tante situazioni. Quindi non bisogna prendere né da una parte né dall'altra, capite? La fede cattolica tiene sempre insieme il presente e il passato, il nuovo e il vecchio, senza metterli in opposizione. Dice, Dio è di destra o di sinistra? È di centro, d'accordo? Perché voi sapete che anche in politica la destra sottolinea alcuni valori, la sinistra ne sottolinea altri, ma sono importanti tutte e due. D'accordo? Quindi non voglio dire che bisogna votare la Democrazia Cristiana, capi bene quello che sto a dire, no? Ma è sempre stato proprio un atteggiamento proprio rigorosamente cattolico avere presente sempre questa complementarietà, mai pendere verso una direzione, perché appena pendi verso una direzione diventi eretico, subito. La storia della Chiesa ne dà testimonianza a bizzeffe di questa roba qui. Quindi questo è molto importante, non solo come firma di San Matteo, ma anche come formazione nostra personale di cristiani cattolici e anche di membri della Chiesa di cui ci gloriamo felici di fare parte. Adesso questa è l'ultima slide, facendo un po' una sintesi. Allora, le leggi del Regno di Dio. Primo, il seme è buono nell'origine, ma bisogna accoglierlo con buona disposizione. Quindi, Dio fa tutto bene, ma se non funziona la libertà dell'uomo, nulla si può realizzare. Il regno di Dio è offerto alla nostra libertà. Questa è la parabola del seminatore. Funziona a seconda delle disposizioni che trova in noi. Secondo, in questo mondo, in questa terra, non pensiamo di trovare il paradiso. Quindi, se ti accosti alla chiesa, devono essere tutti santi. Il vescovo deve essere impeccabile, il parroco deve essere impeccabile, non lo è, la sagrestana deve essere impeccabile, i miei collaboratori, non c'è in realtà nessuno, perché tutti abbiamo un pochetto di zizzania da qualche parte seminata, nessuno escluso. Quindi sia nella dimensione collettiva, sia in quella individuale, il regno c'è, ma è in continua crescita. Non dobbiamo scandalizzarci quando si vede qualche cosa che purtroppo non funziona, perché lo vedremo sempre. Non farne una tragedia, certo dobbiamo combatterlo il male, non dobbiamo rassegnarci, ma con calma e con pazienza. Ancora, comincia con mezzi inadeguati, il granello di senape, a volte proprio piccoli, quasi impercettibili, a volte quasi ridicoli, d'accordo? Non con grandi e strepitosi successi e prodigi. Quindi, noi non siamo di quelli, capite, che alla prima... come grandi film, sfondamento del botteghino, il record di incasso, assolutamente, la Chiesa non è mai andata avanti così, è andata avanti col passaparola, è andata avanti con la testimonianza dell'amico con l'amica, è andata avanti con la piccola predica del povero parroco che ci stanno a sentire da tre persone, va avanti così, noi andiamo avanti così, io dico sempre, qua c'è qualche collaboratore, lavoriamo, andiamo avanti, fa niente, possiamo fare questo, facciamo questo, fa niente, tanto cominciamo a fare questo, poi Dio provvede, faremo quell'altro. Perché se uno aspetta, non va, ma Dio non vuole che sia così, perché Dio vuole che manifestare la sua potenza, dice San Paolo, attraverso la nostra piccolezza e miseria, l'ha sempre fatto. Il centenario di Fatima quest'anno, chi verrà a Fatima quest'anno vedrà i prodigi che ha fatto la Madonna con tre ragazzini analfabeti, scelti apposta, quindi, poi, questo regno plasma progressivamente tutta la persona e anche tutta la Chiesa, perché la Chiesa, se uno la studia in 2000 anni, è diventata bellissima, adesso è variegata, ci stanno 30.000 congregazioni, ci stanno un sacco di preti, buoni o cattivi che ci siano, abbiamo capito meglio il sacramento del matrimonio, quindi progressivamente si arricchisce, quindi viene completamente intrisa, invasa da questo Spirito Santo, sia a livello collettivo, sia a livello individuale, e il Regno di Dio procede per contagio. Noi dobbiamo contagiare dolcemente il prossimo, quindi le persone vedendo noi devono averci la voglia di diventare cristiani, Quindi, e questo dipende molto dalla nostra testimonianza. Poi è quanto di più prezioso possa esserci, ci si può imbattere in esso per caso, la parabola del tesoro, o al termine di una lunga ricerca, o perché catturati dalla rete dell'evangelizzazione. In ogni caso deve diventare la cosa più preziosa a cui sacrificare ogni bene, perché Dio deve stare al primo posto, non perché vuole essere un despota, ma perché questo è bene per noi e dobbiamo riconoscere che dinanzi a Dio che si rivela tutto diventa relativo, tutto, anche le cose più sacrosante. Ecco, richiede la fatica apostolica dell'evangelizzazione, ma solo alla fine del mondo saranno separati i pesci buoni dai pesci fasulli. Fino a quel momento occorre lavorare senza scoraggiarsi e non giudicare mai per nessun motivo. Ci manca l'ultima legge, che è quella che deriva dalla firma di San Matteo. Il regno di Dio va avanti nel corso della storia, diventa sempre più bello, ma si porta dietro tutta la storia. Come diceva la professoressa mia di storia e filosofia, voi sapete, questa diceva, io la devo ringraziare perché questa mi ha insegnato a studiare, perché se no avessi incontrato questa, la laurea non me la sarei presa mai. Lei diceva sempre, la storia si porta sempre e tutta. Allora non lo so, lei a settembre faceva le cause della decadenza dell'impero romano. Poi a maggio era arrivato al Medioevo, ampiamente, insomma, altro che i Longobardi, hai già cominciato col feudalesimo. Tu andavi a aprire e diceva, la causa della decadenza dell'impero romano. Dice, professore, ma questo l'abbiamo fatto 6 mesi fa. Che problema c'è? Dice, professore, sì, oggi non voglio giustificare perché non ho studiato la lezione di oggi. La lezione di oggi, questa la chiedo tra 3 mesi, vieni, vieni, ti preoccupare. Siamo tutto quello che sta indietro. Quest'immagine, la Chiesa è così, d'accordo? Dice, ma questo l'ha fatto 6 mesi fa, quindi no. Quello che ho fatto 6 mesi fa te lo tieni pure mo, quello che ho fatto 2000 anni fa te lo tieni pure mo, figuriamoci la schiera, la Chiesa la diciamo apostolica, noi siamo attraverso il collegio dei vescovi, noi siamo cronologicamente collegati con gli apostoli, con i 12, quindi figuriamoci se poi di questa è una cosa vecchia, ma che te vecchia, ci sono alcune cose che sono passate, che sono obsolete, le cose umane, le cose disciplinari cambiano nella Chiesa, ma le cose che attengono alla verità, alla morale, no. Se erano vere nell'anno 30, sono vere pure nell'anno 3000. Se non erano vere nell'anno 30, non saranno vere nemmeno nell'anno 3000. Ok? Ecco, questo è un po' sinteticamente, chiaramente questa è una piccola sintesi, ma come sempre ci sarebbe molto di più da dire, però il resto lo dirà lo Spirito Santo nei vostri cuori. Bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli e i secoli. Rendiamo grazie, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.